Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Buona giornata da Jean-Marie Delboy e benvenuti a Magazine 24, la rassegna stampa dei settimanali che si trovano in questi giorni in edicola. È decisamente Obama mania. Sarà infatti il 20 di gennaio il giorno in cui Barack Obama diventerà nuovo presidente degli Stati Uniti e non più presidente eletto. Con il giuramento, infatti, il presidente entrerà nel pieno dei propri poteri. E questo è l'avvenimento che viene riportato da quasi tutte le copertine dei settimanali che sono in edicola in questi giorni. Però l'accento è sicuramente differente a seconda dei settimanali. Partiamo dall'Economist, probabilmente uno dei più diffusi settimanali del mondo, che dedica la copertina a Barack Obama con un titolo significativo, Rinnovando l'America. Il compito che il settimanale assegna a Obama e l'apertura di credito è evidente anche nell'editoriale che apre il numero di questa settimana, dove Bush viene indicato come un presidente che ha avuto la semplicistica tendenza a vedere il mondo diviso in due tra bene e male, e Obama viene indicato come una persona che sembra essere molto differente. I prossimi 4 o 8 anni, dice l'Economist, saranno una delusione, un trionfo oppure qualcosa in mezzo. Obama sicuramente è inesperto, però è un uomo rispettoso e dotato di profondità di pensiero, e questo è già una buona partenza. L'apertura di credito è evidente, così come la posizione evidente è di Panorama. Il settimanale italiano, infatti, titola La rivoluzione può attendere, dando per scontato che l'avvento di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti non sarà quel cambiamento radicale che probabilmente ci si poteva attendere al momento dell'elezione. Aveva promesso un'America tutta diversa da quella del suo predecessore, dice Marco De Martino nel suo articolo. Ora che si insedia, è costretto a ridimensionare i suoi progetti. Marco De Martino sottolinea che i consiglieri di Obama cercano di abbassare le aspettative e che i consiglieri continuano a ripetere che la promessa del cambiamento verrà mantenuta, ma a tappe. Così, in sostanza, Panorama accredita l'idea di una possibile continuità tra la linea di George Bush e quella di Obama, o quantomeno l'ipotesi che i due presidenti finiranno in molti campi per prendere decisioni pragmatiche assai simili. Sul passaggio di consegne fra George Bush e Barack Obama pone l'accento anche il periodico del Sole 24 Ore, in edicola in questi giorni, pone però l'attenzione sul presidente uscente e sottolinea come George Bush, in un articolo di Francesca Vercesi, esca con un'eredità decisamente impopolare. Bye bye George Walker Bush, sottolinea Francesca Vercesi, se ne va da protagonista assoluto della scena internazionale nei momenti successivi all'11 settembre a un presidente che è precipitato in una voragine di impopolarità, complice una crisi mondiale, forse più subdola e complessa di un attacco terroristico. E complice anche quel Barack Obama che rappresenta l'antitesi più efficace dell'uomo Bush, cosmopolita, orfano, nero, liberal. Il tema della crisi mondiale torna dalla copertina del Nouvel Observateur. Il settimanale francese dedica infatti un'approfondita inchiesta a come i francesi vanno ad affrontare la crisi e sottolinea come la crisi viene indicata con parole profondamente differenti che riprendono quasi tutte indicazioni catastrofiche. Si parla di tempesta finanziaria, di virus della crisi, di prodotti contaminati. Si tratta quindi di una qualcosa che fa veramente molta, molta paura. E il Nouvel Observateur sottolinea come i ruoli sono ripartiti anche tra coloro che osservano la crisi. Ci sono i narratori, giornalisti, economisti, esperti, ci sono coloro che agiscono o tentano di farlo e ci sono coloro che sono provati, cioè coloro che hanno perso qualcosa del loro livello di vita. E infine ci sono i semplici spettatori della crisi, cioè persone che non risentono degli effetti nella loro vita quotidiana. I narratori parlano allora di crisi finanziaria o economica, mentre invece i provati e gli spettatori parlano di qualcosa di diverso, cioè parlano di crisi morale, Una crisi, quindi, quella che stiamo vivendo in questi giorni, che sembra aver toccato gli individui nella loro dimensione etica. La crisi ritorna anche dalle pagine di Newsweek, che dedica una approfondita inchiesta alla crisi, in questo caso però non vista dalla parte del cittadino, ma più dai modelli di Stato. E Newsweek torna anche sul modello francese, considerando come il modello francese di intervento nell'economia in qualche misura si stia affermando in Europa. E si sta affermando proprio perché questo momento di difficoltà economica richiama i governi a una politica interventista. Però, al di là di queste indicazioni, Holger Schmieding sottolinea come questa diffusione del modello francese potrebbe anche causare qualche danno. Il suo articolo si conclude con la considerazione che un eventuale interventismo troppo accentuato avrebbe un prezzo molto elevato per l'Europa. L'Europa potrebbe essere ancora una volta superata dall'eventuale ritorno del sistema più flessibile statunitense. Newsweek, sempre in materia di politica estera, presenta un'intervista a Tzipi Livni, il ministro israeliano degli esteri. Un'intervista che naturalmente ha come oggetto la crisi di Gaza e la guerra in Medio Oriente, nel quale Tzipi Livni ampiamente rappresenta le ragioni di Israele. Una domanda è particolarmente interessante. Newsweek chiede alla Livni se sente di avere il supporto degli arabi moderati. E la Livni risponde: non voglio imbarazzare nessuno, ma in qualche modo sentiamo di rappresentare i loro interessi. Non è più probabilmente un conflitto, quello medio orientale, sottolinea il ministro degli esteri israeliano, tra israeliani e palestinesi, oppure un conflitto fra ebrei e arabi, ma è un conflitto fra moderati ed estremisti. Questa è la linea che divide ormai questa regione. Sul problema dei conflitti torna ampiamente Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana dedica un inserto speciale a cura di Alberto Bobbio alle tragedie dimenticate. In molte troppe parti del mondo, sottolinea Famiglia Cristiana, ma soprattutto nel sud del pianeta, si combatte e si muore per le guerre, alcune delle quali in corso da parecchi decenni. Si soffrono le conseguenze di terribili calamità naturali, si patiscono sistematiche violazioni dei diritti umani, si subisce l'arroganza di dittature odiose o gli attentati delle bande della criminalità organizzata. E davanti a tutto questo noi occidentali come reagiamo? Che cosa ne sappiamo? Poco o niente. L'indicazione arriva dal terzo rapporto sui conflitti dimenticati, promosso proprio dalla Caritas in collaborazione con Famiglia Cristiana e con il mensile Il Regno, che è stato pubblicato dal Mulino. Proprio a questo, quindi, viene dedicato questo inserto, che sottolinea come spesso, molto spesso, la memoria dei paesi più ricchi sia corta e anche lo sguardo non sappia vedere al di là dei conflitti che riescono a bucare lo schermo televisivo. Da qui la necessità, sottolineata da Famiglia Cristiana, di riportare l'attenzione su tragedie che non sono solo guerre, non sono solo conflitti, ma sono anche catastrofi naturali oppure violazioni dei diritti umani attuate in modo sistematico. Famiglia Cristiana apre poi il numero di questa settimana con un editoriale politico destinato ad avere, come avviene quasi settimanalmente, una larga eco. Il tema è quello dello scontro fra civiltà, un tema particolarmente significativo in questo periodo, sul quale è stata riportata l'attenzione anche al momento della morte di Samuel Huntington, che era stato il sociologo e politologo che aveva elaborato la teoria dello scontro di civiltà, che aveva avuto particolarmente fortuna nel dibattito politico di questi ultimi anni. Famiglia Cristiana sottolinea: è vero, oggi è in atto uno scontro di civiltà, ma non tra Occidente e Oriente, tra cristianesimo e Islam. No, oggi il vero scontro di civiltà si gioca in Parlamento e nelle piazze, sull'accoglienza nei confronti di chi è nel bisogno, sul rispetto della dignità di ogni persona straniera, malata, non ancora nata. L'attenzione dell'editoriale prende come esempio proprio il confronto parlamentare che c'è stato sulla idea proposta dalla Lega di arrivare a un permesso di soggiorno a pagamento e di arrivare a una garanzia di 10.000 euro per gli stranieri che vogliono aprire una partita IVA. La frattura, quindi, per Famiglia Cristiana corre direttamente all'interno della nostra società, all'interno del Parlamento. E l'attenzione viene poi riportata sulle polemiche che ci sono state per le preghiere islamiche che hanno caratterizzato molte manifestazioni che si sono svolte dopo la deflagrazione del conflitto in Medio Oriente. Gli islamici, sottolinea Famiglia Cristiana, hanno chiesto scusa al cardinale di Milano per aver fatto diventare moschea Piazza del Duomo, dopo una manifestazione di protesta contro Israele, dove l'odio era sparso a piene mani. Eccolo il vero scontro di civiltà, tra accoglienza e rifiuto, tra dialogo e negazione dei diritti, civili, umani e religiosi dei popoli e delle nazioni. Un editoriale che probabilmente farà molto discutere e che sottolinea tutta una serie di situazioni in cui i diritti degli immigrati, secondo Famiglia Cristiana, sono stati negati. È degno di persone civili, sottolinea ancora Famiglia Cristiana, negare le cure mediche agli immigrati clandestini come è avvenuto in Friuli? Ma la vicenda friulana, sottolinea il settimanale, è solo l'ultimo esempio di negazione di diritti. A Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, centinaia di clandestini vivono dentro capannoni sfasciati, anche senza tetto. Sono lì per raccogliere gli agrumi per le nostre tavole. Forse sono gli stessi che hanno raccolto pomodori in Campania l'estate scorsa. Sono qui, lavorano per noi. È civile lasciarli vivere come bestie? Il governo non ha mosso un dito, né ha inviato Bertolaso a vedere. La protezione civile continua nell'editoriale Famiglia Cristiana, funziona solo per gli italiani? Un quesito, come detto, che probabilmente farà discutere. Magazine 24. Ben ritrovati da Jean-Marie Delboy, Magazine 24, la rassegna stampa settimanale dei periodici che potete trovare in edicola in questi giorni. Avevamo chiuso la prima parte parlando dell'editoriale di Famiglia Cristiana sul problema dello scontro di civiltà nel Parlamento e nella società italiana. Continuiamo ora con un'inchiesta dell'Espresso che ci riporta ancora alla realtà italiana e ci riporta a un tema caldissimo, quello della lotta all'evasione. L'Espresso sottolinea come l'avvento di Giulio Tremonti alla guida del Ministero dell'Economia avrebbe determinato un calo di tensione nella lotta all'evasione. La lotta all'evasione ai tempi di Giulio Tremonti, si chiedono Paolo Biondani e Luca Piana, letteralmente dimenticata. Per fotografare cos'è cambiato nella politica fiscale con il ritorno al governo di Silvio Berlusconi, alcuni alti ufficiali della Guardia di Finanza tornano al primo giorno. Tremonti si è appena insediato, raccontano Biondani e Piana, e al comando generale è fissata la prima riunione operativa della Guardia di Finanza. Il vertice del corpo deve trasmettere a tutti i comandanti regionali le direttive. Si susseguono gli ordini, lotta alla contraffazione, immigrazione clandestina, pattugliamento delle coste, ma non viene citata l'evasione fiscale. L'argomento è sicuramente bollente. L'opposizione, sottolineano Biondani e Piana, accusa il governo di aver mollato la presa sugli evasori, compromettendo l'extragettito che era stato raccolto negli anni passati. L'andamento dei conti, però, ribatte Tremonti, è coerente con gli impegni europei, forte dei dati della Banca d'Italia. Secondo l'Espresso, però, il calo di tensione nella lotta all'evasione c'è stato. Per esempio, l'Espresso rimarca come il centro studi NEMS, fondato dall'ex viceministro Vincenzo Visco, che nella passata legislatura aveva ricoperto il ruolo di titolare della lotta all'evasione, ha calcolato che l'aumento delle entrate nel periodo gennaio-ottobre è dovuto unicamente all'IRPEF, dovuto ai numerosi rinnovi contrattuali. Un'analisi, quella del NEMS, sottolineano Biondani e Piana, che per i lavoratori dipendenti ha un gusto amaro. Se così stanno le cose, infatti, sarebbero proprio gli italiani che non possono evadere perché sono tassati alla fonte a garantire la tenuta dei conti pubblici. Questa tesi ritorna anche in un colloquio che Luca Piana ha avuto con Maria Cecilia Guerra, studiosa di scienza delle finanze, che era stata chiamata come consulente del governo Prodi e come consulente del ministro Visco. Secondo Maria Cecilia Guerra, sicuramente lo smantellamento delle misure antievasione ha già sottratto al fisco alcuni miliardi di euro e l'effetto è destinato ad aumentare nel corso dell'anno. Quali sono le cause che spingeranno i contribuenti a pagare meno tasse? Chiede l'Espresso. Certamente, sottolinea Guerra, l'aver ridotto la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai professionisti, l'abolizione dell'obbligo per gli imprenditori e gli stessi professionisti di tenere l'elenco di clienti e fornitori, la riduzione delle sanzioni per chi viene scoperto a evadere. Ma ci sono anche provvedimenti meno conosciuti, come ad esempio aver eliminato la responsabilità in solido per chi fa un appalto sul pagamento delle ritenute fiscali da parte di chi se lo aggiudica. È possibile stimare, chiede l'Espresso, quanto pesa l'abbandono della lotta all'evasione? Calcoli più precisi, conclude Guerra, saranno possibili solo tra qualche mese, con i dati definitivi del 2008. Se si considera però che il governo precedente aveva quantificato in 23 miliardi di euro il gettito aggiuntivo garantito dalle misure antievasione, stiamo probabilmente parlando di alcuni miliardi. Sulla cronaca italiana ritorna ancora Famiglia Cristiana. Attraverso la penna di Giovanni Nicois e Delia Parrinello, la storia di un imprenditore che si è ribellato. Ribellione che però è costata molto cara perché il 13 maggio scorso, sottolineano gli autori, la Camorra ha dato fuoco al capannone della sua azienda, che ora è solo un cumulo di macerie. Erano più o meno le 10:30 di sera quando mio figlio, racconta Russo, mi ha telefonato per avvertirmi che stava suonando l'allarme in fabbrica. Io sono arrivato praticamente subito, ma le fiamme erano già altissime e non ho potuto far altro che assistere impotente alla fine di oltre 20 anni di attività. Russo però non demorde. Il suo impegno è testimoniato anche dal fatto che dal 2006 Russo è presidente dell'Associazione Anti-Racket di Santa Maria Capua Vetere, una delle tante associazioni protagoniste del risveglio di imprenditori vessati dal crimine che si mobilitano nel sud. E la testimonianza è particolarmente significativa. Siamo passati, sottolinea Russo, da 12 a 40 iscritti in 2 anni e non sono solo commercianti. A febbraio saremo di nuovo pronti per ricominciare. Voglio fare una grande festa di inaugurazione. Soltanto allora, conclude Russo, potrò dire di aver vinto la mia battaglia contro la Camorra. E ora passiamo decisamente a un altro argomento. L'Espresso, infatti, con un titolo decisamente provocatorio, si chiede se Facebook sia stupido. Facebook, sottolinea Alessandro Giglioli, ha più di 150 milioni di iscritti nel mondo. Però all'interno di Facebook sono nati migliaia di gruppi che si battono per le cause più assurde, al punto che molti si sono già stufati e cercano di uscire dalla rete e di uscire dal social network. Scappare non serve, sottolinea però Alessandro Giglioli. Se anche uno si cancella da Facebook, stremato dalle richieste di amicizia e di partecipazione a cause, il social network lo insegue lo stesso, visto che ormai ne parlano tutti, in TV o alla macchinetta del caffè. Da un punto di vista mediatico siamo forse al picco della parabola, il momento in cui un'innovazione raggiunge il massimo della popolarità. Segue di solito la fase della disillusione e infine un assestamento. Intanto, sottolinea però Giglioli, il picco è fra noi e individua alcune delle cause più strane per le quali sono nati gruppi all'interno di Facebook. Per esempio, un gruppo ha colpito Letizia Moratti, dopo che su Facebook è nata la comunità «Portiamo un chilo di sale al sindaco perché faccia spalare la neve». Nel mirino è finito anche Gigi D'Alessio, 35.000 iscritti, al gruppo «Perché Dio si è preso di André e ci ha lasciato D'Alessio». E anche il Papa, oltre 115.000 firmatari per la petizione Trasferiamo il Vaticano in Groenlandia. Il fenomeno quindi serve sicuramente per comunicare, ma ha dato luogo alle più stravaganti iniziative che uno possa immaginare. Il Nouvel Observateur, invece, torna su un argomento probabilmente più serio e che merita una riflessione. Un argomento tutto francese, ma che ha sicuramente un risvolto che vale per tutti i tempi. In Francia è uscito un libro shock dello scrittore Dominique Fernandez che ricostruisce in centinaia di pagine il rapporto con il padre. Un rapporto estremamente difficile perché il padre è stato un collaborazionista dell'occupante tedesco. Quindi ha svolto un ruolo pubblico, un ruolo politico-culturale, che la storia ha poi in qualche modo rimosso dalla memoria dei francesi. Come dicevo, una storia che ha uno sfondo francese, ma che probabilmente vale per tutti i tempi. Il tema è quello che si ripropone ciclicamente. Come riconoscere il male, come evitare di porsi al servizio della causa che poi la storia riconoscerà sbagliata. Viene descritta quindi la parabola di un intellettuale che fa la scelta umanamente sbagliata. Tuttavia viene ricostruita attraverso gli occhi del figlio. Sottolinea Fernandez in un'intervista: «Mio padre nel 1937 è diventato un esponente di rilievo di un partito filonazista. Fino a lì tutto, come dire, era comprensibile. Un uomo colto, un uomo raffinato. Come ha potuto sbagliarsi in modo così significativo e associarsi pubblicamente a dei bruti sanguinari? È una domanda senza risposta, un mistero che non può essere chiarito. E so che non lo saprò mai. L'approfondimento è particolarmente significativo perché in Francia questo libro ha avuto una grandissima rilevanza. E sottolinea anche come mai i francesi sono così grati al generale de Gaulle. Probabilmente, sottolinea Jean-Pierre Azéma, intellettuale e figlio di un altro collaborazionista, perché il generale ha procurato loro la dolcezza dell'amnesia, con ciò sottolineando come la Francia probabilmente non ha fatto i conti completamente con la propria storia. Ma cambiamo decisamente argomento e veniamo a Donna Moderna, che ci propone due approfondimenti su due temi di grande popolarità. Sette anime, l'ultimo film di Gabriele Muccino e Will Smith, e l'uscita dell'ultimo libro di Stieg Larsson, due eventi culturali e popolari che hanno fatto molto discutere. Riguardo al film di Muccino, Donna Moderna individua sette motivi per andare a vedere un film che è stato decisamente controverso. Si va dalla qualità del regista, Gabriele Muccino, alla qualità del protagonista, Will Smith, per finire con il messaggio. Si tratta, sottolinea Donna Moderna, di un film che invita a trattare la vita seguendo le proprie convinzioni fino in fondo. Donna Moderna sposta poi il proprio obiettivo sullo scrittore svedese Stieg Larsson, che è diventato, con 8 milioni di copie vendute in tutta Europa, uno dei fenomeni culturali e popolari di questo tempo. Lavinia Rittatore ne parla con Francesca Varotto, editor della Marsilio, che è la casa editrice che ha avuto la grande fortuna di stampare le opere di Larsson, e sottolinea un particolare. Di solito gli autori scandinavi sono amati nel nord Europa. Larsson ha invece conquistato un pubblico immenso, una cosa straordinaria, anche perché i romanzi sono usciti postumi. Larsson aveva appena consegnato, al momento della sua morte, i tre manoscritti a un editore svedese. Il fenomeno Larsson non accenna dunque a diminuire, tanto che è già in preparazione un film in arrivo entro l'anno, un film probabilmente destinato a ripetere il successo dei libri. Per oggi è tutto. Ringrazio in redazione Daniele Casagrande e Vittoria Mussini e in regia Fabio Cantadori. A risentirci alla prossima settimana.